che guido, io che vado fuori strada sempre, io che pago. Non è mai successo che pagassero per me. Questa è la mia vita, se entri chiedimi permesso, portami una gita, fammi ridere di gusto, porta la tua vita, che vediamo che succede a mescolarle un po'. E ora che ci sei, dato che ci sei, fammi fare un giro su chi non sono stato mai. Dato che ci sei, come io vorrei. Questa è la mia vita, sono quello che ci pensa, porto un paio d'ore. Una notte bella, densa, trattamela bene, che al momento solo questa e poi vedremo poi. Questa è la mia vita, certi giorni non si batte, certi altri meno, è così che va per tutti, certi giorni è poca, certi giorni sembra troppa, invece non lo è mai. E ora chi ci sei? Dato che ci sei, fammi fare un giro su chi non sono stato mai. Dato che ci sei, come io vorrei. La mia vita, tieniteli tu i consigli, io non l'ho capita, figurati se tu fai meglio, porta la tua vita e vediamo che succede a mescolarle un po'. Ma ora che ci sei, dato che ci sei, fammi fare un giro